America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero e il Thanksgiving. Oggi l'America, tutta l'America, è in vacanza per celebrare questa straordinaria ricorrenza, il giorno del ringraziamento, che non ha colori razziali, connotazioni religiose, è la festa di tutti, una grande festa americana, una grande festa americana che è caratterizzata dal tacchino. Sentiamo Barack Obama. Today I'm taking an action fully within my legal authority. The same kind of action taken by Democrats and Republican presidents before me to spare the lives of two turkeys, Mac and Cheese, from a terrible and delicious fate. Avete sentito, il presidente ha sempre questa cerimonia alla Casa Bianca in cui perdona un tacchino. Un tacchino che si salva dal massacro di tacchini che avviene ogni volta che si celebra il Thanksgiving. Pensateci, quanti tacchini vengono macellati per il Thanksgiving? Pensate a un numero nella vostra testa, vi do la risposta: 51 milioni di tacchini. La PETA, con l'Associazione della Protezione degli Animali, ha denunciato, per modo di dire naturalmente, la NBC perché non ha accettato di trasmettere una sua pubblicità per il povero tacchino. Dice: non risparmiateli questi tacchini, sono degli animali domestici, sono come il vostro cagnolino, come il vostro gattino, sono felici se li accarezzate le penne e fanno dei mugolii, ballano persino al suono della musica, perché ucciderli? Fate un Thanksgiving vegetariano. Tofurchi, tofurchi è il tacchino vegetariano. La NBC appunto ha rifiutato di trasmettere questa pubblicità. Perché? Beh, perché la NBC trasmette in diretta anche la grande parata di Macy's, che caratterizza a New York, vista in tutta America, caratterizza questa grande festa americana, e dunque non gli sembrava un'ottima idea, mentre i bambini guardavano queste parate coi carri, con gli animali, mettere questa pubblicità che diceva: massacrate i tacchini. Good morning everyone, happy Thanksgiving, I'm Matt Lauer. Ecco, ho fatto ascoltare dalla preparazione in diretta, perché parte fra un paio d'ore questa parata nell'Upper West Side, scende davanti a Macy's, che è il più grande department store americano, il più grande negozio americano. È una parata, devo dire, straordinaria. Ci sono dei palloni enormi che rappresentano un po' tutti i grandi personaggi della mitologia dei fumetti americani. La gioia dei bambini viene trasmessa in diretta in tutta America. Ci sono molte notizie, una che mi ha colpito: di 15 soldati americani tornati da una missione in Liberia. E questi poveri soldati passeranno il Thanksgiving in isolamento. Sono arrivati martedì e nessuno di loro ha segnali della malattia, però non potranno lasciare la loro base di Lewis McChord per i prossimi 21 giorni. Usciranno giusto in tempo per festeggiare il Natale. The representatives of the United States of America solemnly publish and declare that these United Colonies are and of right ought to be free and independent states, that they are absolved from all allegiance to the British crown. Ma veniamo alla storia del Thanksgiving, perché è ispirata direttamente dai padri pellegrini, i coloni del Nuovo Mondo che erano scappati per persecuzioni religiose dalla Gran Bretagna in America, in Massachusetts appunto, e appena sbarcati dalla Mayflower, la celebre nave Mayflower, nel settembre del 1620, ecco, la prima cosa che fecero appunto fu il ringraziamento al Signore per essere arrivati nella terra promessa. Questa festa, come vi dicevo, poi è diventata una grande festa americana, non ha più una connotazione religiosa, riguarda chiunque, riguarda i cinesi, i vietnamiti, i coreani, i sudamericani, gli italiani. Tutti celebrano il Thanksgiving perché? Perché esprime e rappresenta i core values, cioè è quella serie di valori che fanno l'America. Quali sono questi valori? Sono i valori dell'altruismo, della libertà, il valore del give back, della restituzione, i valori della democrazia. Sono quei valori che fanno l'America grande, un'America che però alla fine questi valori non sempre li applica in modo completo. Justice! Now! Ferguson, la rivolta di Ferguson, la rivolta degli afroamericani per una decisione considerata ingiusta, quella che ha deciso di non procedere con un'accusa di omicidio per il poliziotto Wilson che aveva ucciso il 9 agosto scorso il 18enne Michael Brown. Ecco, questa è una nota di tristezza di questo Thanksgiving. I presidenti americani nel discorso dello Stato dell'Unione dicono sempre we want to make a more perfect union, si cerca di fare un'unione più perfetta. Non lo è, però ci si prova, e dunque quello che è successo a Ferguson ha lasciato un po' di amaro. Ci sono delle divisioni, si cerca di reagire. Il presidente degli Stati Uniti, per esempio, la settimana prossima si incontrerà con coloro che hanno sofferto per lo sbarco della Mayflower, cioè con gli indiani d'America. 550 tribù riconosciute dal governo federale andranno a Washington e i rappresentanti si riuniranno con il presidente americano. L'idea è sempre quella di creare un'unione più perfetta. E chiudiamo con un auspicio: se l'anno scorso c'era stata la coincidenza del Thanksgiving con la cometa Ison, vecchia di 4,5 miliardi, dopo aver viaggiato 5 milioni di anni, era arrivata al punto più vicino al Sole, quindi al punto di massimo splendore. Quest'anno auspichiamo che le divisioni, da quelle che vediamo in Medio Oriente, le terribili efferatezze dell'ISIS, fino a quelle che abbiamo visto a Ferguson qui negli Stati Uniti, possano essere superate. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Happy Thanksgiving, goodbye and get going!